puntiamo al massimo, amici, come se foste tutti ragazzi. Quando è che un ragazzo ha puntato verso il minimo di voti? Ma nessuno! Se uno avesse optato per prendere il minimo di voti, sai meno, noi dovremmo dire che quello è un ragazzo handicappato. Se in un concorso per un posto in banca, un ragioniere dicesse così: al concorso io mi attendo il minimo di voti. Oh, noi diremmo: scusa ragioniere, tu sragioni. Prendiamo un calciatore qualsiasi, non occorre che andiamo a pescarlo nei mondiali. Senti, partita oggi, in casa o fuori, cosa pensi tu di segnare il minimo di gol? Pensi che la tua squadra debba segnare il minimo? Ah, oh, sei un handicappato. Tutti si sogna al massimo. E se fermiamo un negoziante ambulante, ecco, che va a un mercato e gli dicessimo: senti, cosa speri di ricavare oggi? Tu, ah, il minimo. Ah, vai col tuo negozio ambulante per intascare il minimo? Ah, ma tu, sei esaurito. Oh. Ma certo, siamo handicappati noi quando questo mondo, dove ci stiamo una volta sola e poi non si ritorna più, quando noi pensiamo di realizzare il minimo. Se io sognassi di fare il prete, al minimo, per salvare la faccia, il minimo, pregassi il minimo, predicassi il minimo, facessi opere di bene, ma al minimo. Oh, dite pure, povero Donnicino, è colpito alla testa, esaurito, handicappato, vuol realizzare il minimo. No, il massimo. Veniamo da un Dio che è massimo, andiamo ad un Dio che è massimo, apparteniamo a un Dio che è massimo. La nostra persona è immagine e somiglianza, carta d'identità, fotografia di Dio immensamente grande. E saremo noi meschini, gretti, avari, tirchi, minimisti? No. Abbasso il minimismo e viva il massimalismo. Dobbiamo tendere al massimo, perché Dio ci ha fatti per il massimo, non per il minimo. Come avevo detto, negli affari, anche negli affari più ordinari. Se uno ci dà una mancia, speriamo che ci dia di più che di meno. Non soltanto quando si vanno a comprare oggetti d'oro, ma anche quando si va a comprare un quintale di patate, o piuttosto di un grammo di meno, un etto di più. Hai sete, perché tutto questo parlare e sudare, hai sete, speri proprio che ti diano il minimo, un bicchiere, ma un cucchiaio, un goccio, ma che goccio? Si guarda se ci danno una bottiglia, se ci danno un fiasco, perché abbiamo sudato, altro che il minimo. Noi siamo fatti così nella nostra natura, e piuttosto che restare così piccoli, guardiamo di andare anche un po' più in su, oltre il 1,35 m, il 1,5 m, su. E se si trattasse di stare a questo mondo, c'è forse qualcuno di voi che spera di starci il minimo? Oh, se ci fosse qui, certamente non mi metterei insieme. Io non mi ci metterei insieme, perché io sogno sempre a di più. Ma penso che non ci sia nessuno qui in mezzo a voi che dica: oh, si tratta di stare a questo mondo, signore, il minimo possibile. Sì, poi magari ti viene un raffreddore, chiami il dottore, chiami il farmacista, chiami questo. Ah, perché a parole dicevi che ti basta stare al mondo il minimo, però con i fatti vedi che metti a subbuglio tutta la provincia perché hai un piccolo mal di gola o i geloni a un piede. Siamo fatti tutti per il più e nessuno è fatto per il meno. Più, la mancia, il più, la paga, se c'è anche un'aggiunta, oltre che alla paga concordata, è benissimo, ti fanno un regalo di 5 bottiglie, e se fossero state 6 invece di 5, avessi fatto le lagrimucce? Se invece che una scatola da 10 bottiglie di recioto, invece che 10 fossero state 12, avresti fatto il broncio? Ma noi siamo fatti per il più, per il più. Come stai? Benino. E se dipendesse da te, vorrei star meglio. Ah, complimenti, è giusto. Com'è andato il concorso? È andato discretamente. E se fosse dipeso da te, cosa avresti sognato? Il massimo. Ah, giusto, giusto, è così. È la natura questa, voluta da Dio in noi. Mica l'abbiamo inventata noi questa natura. Tutti siamo fatti per il più. Nessuno è fatto per il meno. Tanto è vero che noi abbiamo una ripugnanza terribile per il vuoto, che è il meno. Buttati a letto, fai un pisolino, poi a un certo momento guizzi da capo a piedi. Che succede? Dice la moglie. Che succede? Ah, ho sognato di essere sulla gronda della casa, con le gambe a cavalcioni della gronda. Quando ho visto il vuoto, ho guizzato. Ma sei qui in letto, tranquillo, mica sei sulla gronda della casa, briscola. Ah, e come mai tutta sta paura? Perché noi anche sognare il vuoto è contro natura. Faccio per dire, amici, quel che voi avete sperimentato, che noi non siamo fatti per il vuoto. Quando ero curato qui a Bosco, in principio io vedevo che anche i bambini dell'asilo venivano a accompagnare i funerali fino ai cancelli e qualche volta anche dentro. Io mi sono messo d'accordo subito con le maestre, dico no, i bambini non lasciateli venire su, neanche dalla scalinata, teneteli giù qui. Perché padre, io non voglio che vedano quel vuoto. Pazienza noi grandi che sappiamo anche credere nella risurrezione, ma questi bambini è meglio che non lo vedano quel vuoto. Niente, niente, portateli a casa. Hanno già detto le loro requiem, andate a casa. Non siamo fatti per il vuoto. Non siamo fatti per il meno. Siamo fatti per il più. E gli uomini e le donne più furbi e più furbe sono stati i santi che hanno sentito forte il ribrezzo per il meno e hanno tentato sempre verso il più, il massimo che si chiama santità.